Ma è nata sostanzialmente da due ragioni principali. La prima è la realtà, cioè il confronto con una realtà, quella del nostro paese, in cui si lavora tantissimo per occupato, perché le medie lavorate per occupato sono più alte rispetto a quelle, ad esempio, di paesi come la Francia e la Germania, nonostante lavoriamo in meno persone, quindi c'è uno squilibrio tra le poche persone che lavorano tanto e le molte persone che non lavorano, e quindi da un confronto con la realtà quotidiana emergeva questo dato che meritava, a mio avviso, un approfondimento. E poi perché in fondo la riduzione dell'orario di lavoro è stata da sempre la rivendicazione principale, storica, del movimento operaio, dalla sua nascita al suo sviluppo, e credo che ancora oggi rappresenti una rivendicazione che possa unire settori del lavoro diversi, frantumati, che vivono oggi però processi di frammentazione, di frantumazione comuni, e credo che quella della riduzione dell'orario sia una rivendicazione che possa unire e ricomporre il mondo del lavoro. Quindi sostanzialmente da due ragioni, cioè dall'analisi cruda della realtà dei dati relativi al mercato del lavoro, e dall'altra dal tentativo di dare una risposta a questa questione. Certo, ecco, tu già lo anticipavi, cioè ci dedichi anche un capitoletto nel tuo libro. La situazione italiana è particolare perché appunto pochi lavorano molto e molti lavorano poco. A cosa è dovuto questa situazione prettamente italiana? Allora, è dovuta principalmente a 25 anni, io parto dal 92 per arrivare ai giorni d'oggi, 25 anni di politiche di contenimento salariale, cioè politiche che avevano come obiettivo quello di ridurre i salari, perché per questa via le imprese potevano competere, potevano esportare, potevano aumentare la loro produttività, potevano aumentare la loro competitività. Quindi da un lato sono una misura di politica economica volta esclusivamente a ridurre il salario come leva della competitività, e dall'altra ovviamente tutta una serie di riforme dalla legge Treu, passando per la legge Biagi, fino al Jobs Act, che sono tutte legate alla riduzione delle tutele del lavoro, a uno scontro aperto, seppur con gradazioni diverse, contro la rappresentanza sindacale, quindi contro la contrattazione collettiva nazionale. Questo ha provocato uno sbilanciamento dei rapporti di forza, per cui l'impresa ha potuto gestire in maniera autonoma, talvolta anche autoritaria, il lavoro, decidendo appunto la quantità di lavoro necessaria, riducendo ovviamente gli organici, perché il processo di ristrutturazione, di riduzione degli organici, ha prodotto da un lato una sottooccupazione, quindi più persone che non lavorano, e dall'altro l'aumento dei tempi di lavoro per coloro che già lavoravano, quindi una polarizzazione del mercato del lavoro. Io credo che siano questi due fattori che abbiano giocato di più nello spiegare questo fenomeno, ecco. Certo, il tuo libro, come dire, presenta sia, diciamo così, una ricostruzione storica, anche un'analisi teorica, ma con implicazioni concrete. E per quanto riguarda la storia, diciamo, partendo insomma anche da metà del secolo scorso, più o meno, fino ad oggi abbiamo avuto anche fluttuazioni di quelle che erano, come dire, le ore di tempo lavorato dedicato al tempo libero. Poi aiutarci a ricostruire un po' nelle varie epoche come è cambiata questo aspetto? Allora, sostanzialmente dal dopoguerra, quindi dal immediato dopoguerra agli anni 70, alla metà degli anni 70, quello che comunemente viene definito il trentennio glorioso, c'è stata una riduzione importante delle ore di lavoro, che è una riduzione dovuta in larga parte alle lotte, ai cicli di mobilitazione operaia che si sono diffusi in tutto l'Occidente, quindi sia negli Stati Uniti d'America e poi ovviamente in Europa. E la lotta sindacale per la riduzione dell'orario di lavoro ha comportato una drastica riduzione delle ore lavorate, sia settimanalmente, sia annualmente, sia ovviamente quelle giornaliere. Questo processo subisce una battuta di arresto negli anni Ottanta, con quella che comunemente viene definita la svolta liberista di Reagan e della Thatcher, fondamentalmente, che hanno ribaltato, rovesciato i rapporti di forza nel mondo del lavoro, dato maggiore potere alla parte datoriale e hanno tolto ovviamente molto potere alle organizzazioni sindacali. Dagli anni Ottanta questo trend di riduzione dell'orario di lavoro, che aveva avuto diciamo, una sua dinamica importante nel trentennio precedente, subisce una battuta di arresto e l'orario di lavoro comincia a rimanere pressoché identico, se non a aumentare addirittura. Pensiamo all'Inghilterra e agli Stati Uniti d'America, che sono i due grandi luoghi in cui avviene per prima questa svolta, la svolta liberista degli anni Ottanta, l'orario di lavoro addirittura cresce. Cresce fino diciamo, ai giorni nostri, dove sostanzialmente questo ciclo di arresto dell'orario di lavoro si interrompe. Ma appunto la riduzione dell'orario di lavoro segue le oscillazioni del ciclo politico, economico che attraversa il Novecento, quindi da una parte nel trentennio glorioso una riduzione importante dell'orario di lavoro, dagli anni Ottanta in poi si registra un arresto di questa riduzione dell'orario e anche un aumento degli orari, soprattutto negli anni 90 e negli anni 2000 in particolare, dove la crisi viene utilizzata dalla parte datoriale per comprimere il costo del lavoro e per aumentare quindi i tempi di lavoro, perché aumentando i tempi di lavoro e mantenendo lo stesso salario ovviamente aumenta la produttività e aumentano i profitti per l'impresa. Certo, ecco, appunto nella storia più o meno recente, insomma, solo per non guardare sempre all'Italia, abbiamo visto ad esempio le battaglie sulla riduzione dell'orario di lavoro in Francia oramai più di un decennio fa, e recentemente la battaglia dei metalmeccanici tedeschi appunto per avere più tempo, insomma, di lavoro. E in Italia ogni tanto emerge questo tema, ma non è una battaglia così forte oggi, dico, da imporsi nel dibattito pubblico. Secondo te perché? Allora, le ragioni sono tante, ovviamente. C'è il dibattito sulla riduzione dell'ora di lavoro è abbastanza fermo in Italia da un po' di tempo, purtroppo, quantomeno dagli anni Ottanta. Lo scrivo nel libro, si parla di riduzione dell'ora di lavoro a metà degli anni Ottanta all'interno di un piano di riforma del governo Craxi, tuttavia dopodiché si interrompe la discussione, se non negli anni 90 con la proposta di Bertinotti e del Partito di Rifondazione Comunista delle 35 ore, che però non produrrà nessun effetto poi sul dibattito politico parlamentare. Le ragioni a mio avviso sono legate al fatto che la sinistra politica negli ultimi 30 anni ha accettato l'ideologia neoliberale, ha accettato i suoi elementi costitutivi, e cioè il fatto che per aumentare la competitività bisognasse far oscillare i salari sulla base della domanda, per cui bisognasse inevitabilmente ridurre i salari per aumentare la produttività e per competere con il resto delle economie avanzate. Dall'altra parte anche le organizzazioni sindacali hanno in buona parte dovuto difendersi in questi ultimi 30 anni, giocato un po', possiamo dire, di rimessa, un po' sulla difensiva, perché la crisi ha accentuato le disuguaglianze, ha frantumato il mondo del lavoro ed è mancata anche alle organizzazioni sindacali la spinta per riuscire a individuare una battaglia che unificasse il mondo del lavoro e lo ponesse diciamo in un punto più avanzato, quindi non solo in una battaglia difensiva ma anche in una battaglia offensiva. Credo che siano questi i motivi centrali, quindi da una parte il compatibilismo di una certa cultura politica della sinistra negli ultimi 30 anni, l'aver accettato in maniera non critica, ecco, quelle che erano le conseguenze negative che la globalizzazione liberista avrebbe prodotto nel mondo del lavoro, e dall'altra parte la tendenza delle organizzazioni sindacali a giocare solamente su un piano di difesa dell'esistente, non provare mai a trovare un punto di attacco, ecco. Ecco, però questo iperliberismo, sto attento a non usare le stesse espressioni di Fusaro, ha generato anche una sorta di conflitto fra lavoratori. Lo citavo prima, ritorno sulla questione degli orari degli esercizi commerciali. Spesso c'è un conflitto fra chi effettivamente lavora negli esercizi commerciali e chi è lavoratore, ma come dire, in quel caso è cliente, perché appunto sulla conciliazione dei tempi per banalmente fare la spesa, quindi la frammentazione che dicevi tu prima si traduce anche in questa situazione. Esatto, si traduce anche in questa situazione. Io penso che però oggi siamo arrivati a un punto di rottura, cioè nel senso, in questi ultimi 30 anni il fatto che la divisione voluta, diciamo, dal capitale, utilizzando le categorie classiche, e cioè quella tra chi produce e chi consuma, come se fossero due soggetti separati, ha funzionato perché ancora si era in un trend in qualche modo espansivo, seppur molto più precario rispetto agli anni precedenti, ma in un trend espansivo in cui la ricchezza in qualche modo ancora in parte veniva redistribuita. Io credo che oggi siamo arrivati a un punto invece in cui questo sistema è collassato, e cioè l'aumento delle disuguaglianze, l'aumento della povertà del lavoro ha fatto sì che questo meccanismo perverso tra produzione e consumo esplodesse, per cui chi oggi produce con un salario povero è allo stesso tempo un consumatore povero, e quindi in qualche modo si rispecchia questa identità, no? Tra produttore e consumatore, tra lavoratore e consumatore, cioè il salario, chi lavora con un salario basso diventa anche un consumatore che deve necessariamente avere una domanda, diciamo, molto bassa di prodotti, quindi credo che questo sia entrato, questo rapporto, in un circolo vizioso, per cui le esplosioni anche di conflittualità che ci sono nei settori della logistica, ad esempio, nei settori della grande distribuzione, testimoniano che è saltata, diciamo, una sintesi anche dal punto di vista del racconto neoliberale, no? Che tutti potevamo arricchirci, che eravamo tutti consumatori e potevamo consumare ciò che ci pareva, insomma, che il consumo era l'elemento identitario, no? Oggi crolla davanti alla durezza delle condizioni di lavoro e anche del consumo, ovviamente, delle persone. Credo che per metterle però insieme c'è bisogno di una c'è bisogno di elaborare, diciamo, un progetto che è un progetto politico, un progetto di ricomposizione dentro un orizzonte possibile. Io credo che la riduzione dell'ora di lavoro consenta, a parità di salario si intende sempre, consenta di ricomporre ciò che è, diciamo, il capitale, il liberismo vuole dividere, in questo caso chi produce da chi consuma. Chi produce e consuma sono le stesse persone, e quando c'è un riconoscimento è possibile far saltare questo schema. Infatti, è produrlo e avvicinarlo. Esatto, noi a questo punto siamo, come dire, anche a una parte del tuo libro dove metti a confronto le proposte di riduzione dell'orario, e quindi siamo anche al sottotitolo, cioè si parla di una rivoluzione possibile. Quindi com'è possibile questa rivoluzione tra vita, lavoro e società? Allora, è possibile a patto che diciamo che le forze organizzate e le forze non organizzate assumano questo tema e provino a lanciare una sfida generale, a partire dalla riduzione dell'ora di lavoro. È possibile farlo in tanti modi, è possibile ridurre l'ora di lavoro in tanti modi, è possibile farlo per via sindacale, quindi dentro gli strumenti classici della contrattazione, come appunto i contratti di solidarietà espansivi che riducono l'orario di lavoro all'interno dell'azienda a parità di salario. È possibile farlo anche per via legislativa, introducendo una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. È possibile farlo in tanti modi, il problema è assumere la consapevolezza che questo tema è centrale e che va inserito dentro un ritorno anche del controllo pubblico statuale sulla domanda di lavoro, perché è evidente che se noi non controlliamo, se lo Stato non controlla la domanda di lavoro, e quindi se i meccanismi del mercato continuano a funzionare come unici regolatori del sistema economico, allora la riduzione dell'orario di lavoro non produce un riequilibrio dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, e chi, diciamo, lavora meno verrà pagato meno, per intenderci. Quindi ci vogliono, a mio avviso, delle riforme anche sul piano salariale, per cui individuare anche gli strumenti di rafforzamento del salario minimo, perché oggi la contrattazione collettiva purtroppo non copre fasce di lavoratori che sono costretti a lavorare con il salario da fame, quindi ci sono gli strumenti di sostegno salariale che estendano una tutela salariale a tutti i lavoratori. Quindi quello è il primo passaggio, a mio avviso, di riforma che va fatto. A partire da quello, individuare anche dei meccanismi per via legislativa e per via contrattuale per ridurre l'orario di lavoro con un maggior potere anche nell'organizzazione del lavoro. Però senza l'individuazione di uno strumento di sostegno salariale, la riduzione dell'orario di lavoro credo diventi anche possa diventare uno strumento utilizzato da parte datoriale per addirittura ridurre i salari, per cui c'è bisogno chiaramente di un complesso di riforme che toccano sia a livello salariale sia a livello dell'organizzazione del lavoro. Ti chiedo un'ultima battuta che, come dire, anche alla luce di tutto quello che abbiamo detto in questa chiacchierata, è un commento. In realtà, secondo te, il reddito di cittadinanza in questo tema si inserisce e come si inserisce? Può essere utile? Non è utile? Allora, innanzitutto il reddito di cittadinanza non può essere quello previsto da questo governo. Cioè, il reddito di cittadinanza può essere inserito dentro appunto un sistema che prevede un salario minimo. Quindi senza un salario minimo il reddito di cittadinanza potrebbe avere un effetto deflattivo sui salari, cioè potrebbe far diminuire i salari, perché l'impresa, avendo un salario di riserva, che in questo caso è il reddito di cittadinanza, potrebbe contrattare un salario inferiore rispetto a quello che invece contratta oggi, no? Quindi è necessario inserire il reddito di cittadinanza dentro una riforma complessiva che prevede ad esempio un salario minimo sotto il quale il lavoro non può essere richiesto, e quindi questo comporta che il reddito di cittadinanza deve essere poi a una cifra, diciamo, ragionevole, cioè un reddito di cittadinanza un po' più alto rispetto a quello previsto da questo governo. Ma appunto, senza una riforma sul salario, il reddito di cittadinanza ha un effetto esclusivamente deflattivo sui salari, cioè ha un effetto che diminuisce i salari. Di fatto i 5 Stelle con questo tipo di proposta non fanno altro che addirittura obbligare chi accetta un reddito a un lavoro gratuito. Questo, pensate bene, se c'è un lavoro ci deve essere anche una domanda di lavoro, a quella domanda di lavoro bisogna che venga pagata. Invece si usa questo meccanismo per abbassare ulteriormente i salari e per ridurre le tutele del lavoro, e questo è inaccettabile. Il reddito va bene, però dentro, diciamo, un istituto salariale che salvaguardi la forza politica del mondo del lavoro e la forza contrattuale.